Non sapevo che Bernie fosse sposato, non credevo che si sarebbe ammogliato senza dirlo al suo vecchio padre. Il dottor Redfern aveva gli occhi lucidi. In mezzo al sordo dolore della propria infelicità, alla paura e allo spavento, Velen si provò un impeto di pietà per lui. Non lo biasimi, disse di getto, non è stata colpa sua, sono stata io l'artefice. Non sarà stata lei a chiedergli di sposarla, suppongo, si infervorò il dottor Redfern. Avrebbe potuto dirmelo. Se lo avesse fatto, avrei conosciuto mia nuora prima di adesso, ma sono felice di fare ora la sua conoscenza, mia cara. Molto felice. Ha l'aspetto di una giovane donna sensibile. Avevo il timore che Barney si prendesse qualche sciocchina soltanto perché avvenente. Naturalmente cercavano tutte di accaparrarselo. Se volevano i suoi soldi? Lei che cosa dice? Non amavano le pillole e gli amari, ma amavano i dollari, eh? Volevano mettere le graziose manine sui milioni del vecchio dottore, eh? Milioni? Disse debolmente Valency. Avrebbe desiderato potersi sedere da qualche parte, avrebbe desiderato poter riflettere, avrebbe voluto sprofondare assieme al castello blu in fondo al Mista Wiss, per scomparire dall'umana vista una volta per sempre. Milioni? Sì, milioni, confermò il dottor Redfern compiaciuto. E Bernie li rifiuta per quello? Ancora una volta agitò sprezzantemente il diamante in direzione del castello blu. Non pensa che dovrebbe essere più ragionevole? È tutto per colpa di una pallida ragazzina. Bah, comunque deve aver superato quel dispiacere visto che si è sposato. Lei deve persuaderlo a tornare in mezzo alla civiltà. Non ha senso sprecare la propria vita a questo modo. Non ha intenzione di condurmi a casa sua, mia cara? Suppongo ci sia un modo per arrivare laggiù. Naturalmente, disse scioccamente Valency. Gli fece strada giù fino alla piccola baia dove si trovava l'imbarcazione con l'elica ritraibile. Vuole venire anche il suo uomo? Chi? Harry? Oh, non lui. Lo guardi, come se ne sta lì seduto con aria di disapprovazione. È contrario all'intera spedizione. Il sentiero che abbiamo dovuto percorrere una volta terminata la strada gli ha fatto quasi venire un attacco isterico. Beh, era un tragitto infernale sul quale guidare una macchina. Di chi è quella vecchia carretta laggiù? Di Barney. Buon Dio, Bernie Redfern guida un arnese del genere? Sembra la trisavola di tutte le Ford. Non è una Ford, è una Grey Slosson, disse vivacemente Valency. Per qualche misteriosa ragione, l'allegro e derisorio umorismo del dottor Redfern nei confronti della vecchia cara Lady Jane la riportò in vita, una vita fatta solo di dolore, ma pur sempre vita, meglio di quella orribile mezza morte e mezza vita degli ultimi minuti o anni, forse. Fece un cenno al dottor Redfern affinché salisse sulla barca e lo condusse fino al castello blu. La chiave era ancora nel vecchio pino, la casa era ancora silenziosa e abbandonata. Valency attraversò la sala e condusse il dottore nella veranda che si trovava sul lato occidentale. Doveva almeno stare fuori all'aria aperta. Il sole splendeva ancora, ma a sud-ovest una grande nuvola temporalesca con bianche creste e scanalature color porpora si stava lentamente alzando sopra il Mista Wiss. Il dottore si lasciò cadere ansante su una sedia rustica e si asciugò ancora una volta la fronte. Caldo, eh? Dio, che panorama! Mi chiedo se potrebbe ammansire Harry nel caso lo vedesse. Ha cenato? Chiese Valency. Sì, mia cara, prima di lasciare Port Lawrence. Non sapevo in che selvaggio buco di eremiti stessimo per avventurarci, sa? Non avevo alcuna idea che qui avrei trovato una graziosa nuora pronta a offrirmi la cena. Gatti, eh? Micio, micio, micio, micio. Guardi, i gatti mi amano. Bernie ha sempre adorato i gatti. È l'unica cosa che abbia ereditato da me. Lui è il ragazzo della sua povera madre. Valency stava pensando pigramente che Barney doveva assomigliare alla madre. Era rimasta in piedi vicino ai gradini, ma il dottor Redfern le fece cenno di accomodarsi sulla sedia a dondolo. Si sieda, cara. Non rimanga mai in piedi quando può sedersi. Voglio guardare con attenzione la moglie di Barney. Bene, bene, mi piace il suo volto. Non è bello, spero non le dispiaccia se lo dico. È abbastanza sensibile per saperlo, suppongo. Si sieda. Valency si sedette. Essere obbligati a restarsene immobili quando l'agonia mentale ci spingerebbe a camminare a grandi passi avanti e indietro è una vera tortura. Ogni nervo del suo essere stava gridando per rimanere da solo, per nascondersi, e invece doveva restare seduta ad ascoltare il dottor Redfern, che era una persona assai loquace. Quando pensa che Bernie sarà di ritorno? Non lo so, non prima che faccia notte, probabilmente. E dove è andato? Non so neppure questo, probabilmente nelle foreste, nella landa desolata. Così non le dice neppure i suoi spostamenti. Ah, Bernie è sempre stato un giovane diavolo riservato. Non l'ho mai capito, proprio come la sua povera mamma. Ma ho pensato molto a lui. Mi ferisce che sia scomparso come ha fatto 11 anni fa. Non vedo il mio ragazzo da 11 anni, sa? 11 anni? Valen si era sorpresa. È qui da soli 6 anni. Oh, prima abitava nel Klondike e ha girato il mondo. Aveva l'abitudine di mandarmi due righe di tanto in tanto. Non accennava mai a dove si trovasse, soltanto una riga per dire che stava bene. Suppongo le abbia raccontato tutto a riguardo. No, non so niente della sua vita passata, disse Valency con improvvisa serietà. Voleva sapere, doveva sapere adesso. Prima non aveva importanza, ma ora doveva sapere tutto. E non lo avrebbe mai appreso da Barney. Era possibile che non lo avrebbe mai più rivisto, in caso contrario non sarebbe stato per parlare del suo passato. Cosa accadde? Perché se ne andò da casa? Me lo dica, oh, prego, me lo dica. Beh, non c'è molto da dire. Era soltanto un giovane sciocco che perse la testa a causa di un litigio con la sua ragazza. Bernie era uno sciocco cocciuto e sempre stato ostinato. Non è mai stato possibile far fare a quel ragazzo qualcosa che non desiderasse, e questo sin dalla nascita. Tuttavia è sempre stato anche un tipetto quieto e gentile, un vero angelo. La sua povera mamma morì quando lui aveva soltanto 2 anni. Avevo appena iniziato a guadagnare dei soldi con il mio Herr Vigor. Ne avevo sognato la composizione, sa? Qualche volta succede. Il denaro iniziò a girare. Bernie aveva tutto ciò che desiderava. Lo iscrissi alle migliori scuole, scuole private. Avevo intenzione di farne un gentiluomo. Io non avevo mai avuto alcuna possibilità. Volevo che lui avesse tutte le opportunità. Frequentò la McGill University e ne uscì con tanto di lode e roba del genere. Avrei voluto che prendesse la facoltà di giurisprudenza. Lui desiderava entrare nell'editoria. Roba del genere, voleva che acquistassi per lui un giornale o che lo aiutassi a pubblicare quello che lui definiva una vera, meritevole e sincera rivista canadese. Suppongo che lo avrei fatto, facevo sempre quello che lui desiderava. Non era forse tutto ciò per cui vivevo? Volevo che fosse felice, non lo è mai stato, riesci a crederlo? Non che lo dicesse, ma ho sempre avuto la sensazione che non fosse felice. Aveva tutto ciò che desiderava, tutto il denaro che poteva spendere, il proprio conto in banca, i viaggi, poteva vedere il mondo, ma non era felice. Non prima di innamorarsi di Ethel Travers. Allora fu felice, per un po'. La nube aveva raggiunto il sole e una grande fredda ombra purpurea sovrastò rapidamente il Mista Whis, sfiorò il castello blu, lo lambì. Valency rabbrividì. Sì, disse con dolorosa serietà. Sebbene ogni parola le lacerasse il cuore, che aspetto aveva? Oh, era la ragazza più graziosa di Montreal, sentenziò il dottor Redfern. Oh, era una gioia per gli occhi, è vero, eh? Capelli dorati, lucenti e setosi, immensi, grandi e dolci occhi neri, incarnato roseo e bianco come il latte. Non mi stupisco che Bernie abbia perso la testa per lei. Ed era anche intelligente, non era per niente sciocca. Era laureata, sa, alla McGill, e per giunta di sangue nobile, una delle migliori famiglie, ma un po' spendacciona, e Bernie era pazzo di lei, il giovane pazzo più felice che si fosse mai visto. Poi la rottura. Che cosa accadde? Valency si era tolta il cappello e con aria assente lo stava trafiggendo dentro e fuori con un ago di pino. Goodluck faceva le fusa accanto a lei. Banjo stava guardando il dottor Redfern con sospetto. Nip e Tuck stavano pigramente gracchiando in mezzo ai pini. Tutto era come sempre, ma niente lo era. Sembravano trascorsi 100 anni da ieri. Ieri, a quella stessa ora, lei e Barney, sebbene fosse tardi, stavano cenando e stavano ridendo. Ridere? Valency aveva l'impressione che non avrebbe mai più riso, e neppure pianto, sai, per questo. Non ne avrebbe avuto più bisogno. Come vorrei saperlo, mia cara. Qualche lite sciocca, suppongo. Bernie si dileguò, scomparve. Mi scrisse dallo Yukon, disse che aveva rotto il fidanzamento e che non avrebbe fatto ritorno e che non avrei dovuto andare a cercarlo perché non sarebbe mai rincasato. Non lo feci. A che scopo? Conoscevo Bernie. Continuai ad accumulare denaro, poiché non c'era altro da fare, ma ero incredibilmente solo. Tutto ciò per cui vivevo erano quelle poche righe che ricevevo da Bernie di tanto in tanto. Klondike, Inghilterra, Sudafrica, Cina, ovunque. Pensavo che forse un giorno o l'altro sarebbe tornato dal suo vecchio padre abbandonato. Poi, 6 anni fa, persino le lettere cessarono. Non ho sentito una parola da lui fino allo scorso Natale. Le scrisse? No, ma staccò un assegno di 15.000 dollari dal suo conto corrente. Il direttore della banca è un mio amico, uno dei miei maggiori azionisti, mi aveva sempre promesso che mi avrebbe informato qualora Bernie avesse firmato qualche assegno. In quella banca Bernie aveva 50.000 dollari e non aveva mai toccato un centesimo fino al Natale scorso. L'assegno era intestato agli Ainslie di Toronto. Ainslie? Valancy udì la propria voce che pronunciava la parola Ainslie. Aveva una scatola sulla toletta con il marchio Ainslie. Sì, la più grande gioielleria qui da noi. Dopo averci pensato un po' su, mi sono fatto animo. Volevo trovare Bernie, avevo un buon motivo. Era giunto il tempo che la smettesse di vagabondare e che tornasse in sé. Il fatto che avesse prelevato quei 15.000 dollari mi fece comprendere che c'era qualcosa nell'aria. Il direttore si mise in contatto con gli Ainslie. Sua moglie era una Ainslie e scoprì che Bernard Redfern aveva acquistato una collana di perle da loro. Il suo indirizzo compariva come casella postale 444 Port Lawrence, Muskoka, Ontario. Prima pensai di scrivere, poi decisi che avrei atteso la stagione in cui le auto potevano nuovamente viaggiare e che sarei venuto qua giù in prima persona. Non mi piace scrivere. Mi sono messo in viaggio da Montreal. Ieri sono arrivato a Port Lawrence, ho preso informazioni all'ufficio postale, mi hanno detto di non sapere niente riguardo a Bernard Snaith Redfern, ma che un certo Barney Snaith aveva lì una casella postale. Viveva su un'isola, da queste parti, e così eccomi qua. E dov'è Barney? Valancy stava toccando la collana. Aveva 15.000 dollari attorno al collo. E dire che lei si era preoccupata che Barney ne avesse pagati 15 e non se lo potesse permettere. D'un tratto rise in faccia al dottor Redfern. Mi scusi, è così divertente, disse la povera Valancy. Lo è? Chiese il dottor Redfern, prendendolo come uno scherzo, e pur senza comprendere esattamente cosa le passasse per la mente. Dunque, lei mi sembra una giovane donna sensibile e suppongo che lei abbia una certa influenza su Bernie. Non può convincerlo a tornare alla civiltà per vivere come tutti gli altri. Laggiù ho una casa, grande come un castello, ammobiliata come un palazzo. Voglio avere della compagnia, la moglie di Bernie, i figli di Bernie. Ethel Travers si è mai sposata? Fu l'irrilevante domanda di Valancy. Buon Dio, certo. 2 anni dopo che Bernie se ne fu andato. Ora però è vedova, graziosa come sempre. Essere sinceri, era questo il motivo speciale per cui volevo trovare Bernie. Pensavo che forse sarebbero potuti tornare insieme, ma naturalmente è fuori questione adesso. Non importa. La moglie che Bernie si è scelto per me va più che bene. È il mio ragazzo che desidero. Pensa che tornerà presto? Non saprei. Ma non credo che tornerà prima che faccia notte, forse abbastanza tardi, e forse non prima di domani, ma posso trovarle una sistemazione confortevole. Domani sera sarà certamente di ritorno. Il dottor Redfern scosse la testa. Oh, troppo umido, non voglio sfidare i reumatismi. Perché soffrire quell'inestinguibile pena? Perché non provare l'unguento Redfern? Citava il diavoletto nel subconscio di Valancy. Devo essere di ritorno a Port Lawrence prima che inizi a piovere. Harry perde la testa quando l'auto si sporca di fango, ma domani sarò di nuovo qui. Intanto faccia ragionare Bernie. Le strinse la mano e le dette una gentile pacca sulle spalle. Valancy ebbe l'impressione che l'avrebbe baciata se lo avesse incoraggiato, ma lei non lo fece. Non che le sarebbe dispiaciuto, era piuttosto raccapricciante e volgare e spaventoso, ma aveva qualcosa che le piaceva. Pensò senza entusiasmo che le sarebbe piaciuto essere sua nuora se non fosse stato un milionario. Un bel po' di tempo prima. E Barney era suo figlio e il suo erede. Lo scortò con la barca a motore e osservò la signorile auto color porpora che si allontanava attraverso i boschi, con un Harry al volante dall'aspetto torvo e silenzioso. Poi tornò al castello blu. Doveva fare subito ciò che era necessario. Barney poteva essere di ritorno in qualunque momento. Inoltre stava certamente per piovere. Era felice di non sentirsi più tanto affranta. Quando si viene ripetutamente colpiti sulla testa, è naturale e provvidenziale che si diventi più o meno insensibili e sciocchi. Restò per breve tempo vicino al focolare, un fiore sbiadito attaccato dal gelo. Lo sguardo rivolto alle bianche ceneri dell'ultimo fuoco che aveva arso nel castello blu. Ad ogni modo, pensò stancamente, Barney non è povero, potrà permettersi un divorzio, senza grande disagio. 39. Doveva scrivere una nota. Il diavoletto del suo subconscio rideva. In ogni storia che lei avesse letto, una moglie in fuga lasciava sempre due righe e generalmente sul portaspilli. Non era un'idea molto originale, ma era necessario lasciare qualcosa di intellegibile. Cosa si poteva fare se non scrivere un biglietto? Si guardò vagamente attorno per trovare qualcosa con cui vergarlo. Inchiostro? Non ce n'era. Valency non aveva mai scritto niente da quando era arrivata al Castello Blu, a eccezione di alcuni memorandum per Barney con una lista di articoli per la casa. Una matita era sempre stata sufficiente per quelle note, ma ora non riusciva a trovarla. Valency si diresse distrattamente verso la stanza di Barba Blu e provò ad aprirla. Si aspettava vagamente di trovarla chiusa a chiave, ma la porta si aprì senza alcuna resistenza. Non aveva mai provato. Prima di allora non sapeva se Barney la tenesse abitualmente serrata oppure no. In tal caso doveva essere seriamente contrariato per esserselo scordato. Non si rese conto che stava facendo qualcosa che lui le aveva proibito di fare. Stava soltanto cercando qualcosa con cui scrivere. Tutte le sue facoltà erano concentrate su ciò che avrebbe detto e sul modo in cui lo avrebbe detto. Non aveva la benché minima curiosità quando entrò nel capannone. Non c'erano belle donne appese per i capelli alle pareti. Sembrava un appartamento assai innocuo, con una comune stufa in lamiera al centro, il cui tubo fuoriusciva dal tetto. Su una estremità c'era un tavolo o un bancone ingombro di utensili dall'aspetto bizzarro, utilizzati senza dubbio da Barney per le sue maleodoranti operazioni, esperimenti chimici, con molta probabilità, rifletté senza entusiasmo. All'altra estremità si trovavano una grande scrivania e una sedia girevole. Le pareti laterali erano ricoperte di libri. Valency andò a tentoni verso la scrivania. Là restò in piedi, immobile per alcuni minuti, lo sguardo rivolto su qualcosa che giaceva sul ripiano. Un fascio di bozze in colonna. La pagina iniziale recava il titolo Miele selvatico e sotto il titolo erano trascritte le parole di John Foster. La frase di apertura. I pini sono gli alberi del mito e della leggenda, affondano le loro radici nella tradizione di un mondo più antico, ma il vento e le stelle amano le loro altere cime. Che musica quando il vecchio Eolo tira il suo arco tra i rami dei pini. Un giorno aveva udito Barney pronunciare quelle stesse parole mentre camminavano sotto quegli alberi. Così Barney era John Foster! L'autore dei libri che lei amava tanto. Valency non era eccitata. Aveva assorbito tutti gli shock e le sensazioni che poteva sopportare in un solo giorno. Questo non la influenzò né in un senso né nell'altro. Si limitò a pensare così. Questo spiega tutto. Tutto era una piccola questione che aveva in qualche modo occupato la sua mente più di quanto la sua importanza potesse giustificare. Poco tempo dopo che Barney le aveva portato l'ultimo libro di John Foster, lei era stata in una libreria di Port Lawrence e aveva sentito un cliente chiedere al proprietario il suo nuovo scritto. Il proprietario aveva seccamente risposto: "Non è ancora uscito, non lo sarà prima della prossima settimana." Valency aveva aperto la bocca per dire: "Oh sì, è uscito", ma l'aveva richiusa. Dopotutto non erano affari suoi. Aveva supposto che il proprietario volesse coprire la propria negligenza per non essersi prontamente procurato il libro. Adesso sapeva. Il libro che Barney le aveva donato era una delle copie aggiuntive riservate all'autore, che erano state spedite in anticipo. Bene. Valency accantonò con indifferenza le prove e si sedette sulla sedia girevole. Sollevò la penna di Barney, che peraltro era di pessima qualità, estrasse un foglio di carta e iniziò a scrivere. Non riusciva a pensare a nient'altro che ai fatti nudi e crudi. Caro Barney, Questa mattina sono andata dal dottor Trent e ho scoperto che per errore mi ha inviato la lettera sbagliata. Il mio cuore non ha mai avuto niente di grave, adesso sto abbastanza bene. Non avevo intenzione di ingannarti, ti prego di crederlo, altrimenti non potrai sopportarlo. Sono dispiaciuta per questo errore, ma potrai certamente ottenere il divorzio se ti lascerò. L'abbandono del tetto coniugale può essere motivo di divorzio in Canada. Naturalmente, se c'è qualcosa che posso fare per aiutarti o per velocizzare la questione, lo farò volentieri se il tuo avvocato mi contatterà. Ti ringrazio per essere stato tanto gentile con me, non lo dimenticherò mai. Ti prego di pensare a me con benevolenza perché non intendevo tenderti una trappola. Addio, per sempre grata, Valency. Era molto fredda e formale, lo sapeva, ma sarebbe stato rischioso tentare di aggiungere altro, sarebbe stato come smontare una diga. Non sapeva quale torrente di irragionevoli incoerenze e furiosa angoscia potesse scatenare. In un post-scritto aggiunse: tuo padre è stato qui ieri, tornerà domani, mi ha detto tutto, credo che dovresti tornare da lui, si sente molto solo per causa tua. Mise la lettera in una busta, vi scrisse Barney e la lasciò sulla scrivania. Sopra vi adagiò la collana di perle. Se fossero stati i gioielli che lei credeva li avrebbe tenuti in memoria di quell'anno meraviglioso, ma non poteva conservare il regalo da 15.000 dollari di un uomo che l'aveva sposata per pietà e che lei adesso stava lasciando. Rinunciare a quel grazioso gingillo la addolorava. Era una cosa strana, rifletté. Il fatto di abbandonare Barney non la feriva per il momento, le aleggiava nel cuore come un qualcosa di freddo e insensibile. Se avesse preso vita, Valency rabbrividì e se ne andò. Si mise il cappello e dette meccanicamente da mangiare a Goodluck e a Banjo, chiuse la porta e nascose accuratamente la chiave nel vecchio pino. Poi approdò sulla terraferma con la barchetta. Restò per un istante in piedi sulla sponda, lo sguardo rivolto al castello blu. Non aveva ancora iniziato a piovere, ma il cielo era scuro e il Mistawiss appariva grigio e cupo. La casupola sotto i pini aveva un aspetto assai patetico. Pareva una bara depredata dei suoi gioielli, una lampada a cui fosse stata spenta la fiamma. Non sentirò mai più il vento gridare sopra il Mistawiss durante la notte, pensò Valency. Anche questo la feriva. Avrebbe potuto ridere al pensiero che un'inezia del genere la addolorasse così tanto in una tale situazione. 40. Valency si soffermò un istante sul porticato della vecchia casa di mattoni di Elm Street. Sentiva di dover bussare come avrebbe fatto un estraneo. Il suo rosaio, notò con noncuranza, era carico di bocci. Il ficus si ergeva di fianco alla cerimoniosa porta. Un momentaneo orrore la pervase, l'orrore per l'esistenza alla quale stava tornando. Poi aprì la porta ed entrò. Mi chiedo se il figlio il prodigo si sia mai veramente sentito di nuovo a casa, pensò. Mrs. Frederick e la cugina Stickles erano nella sala. C'era anche lo zio Benjamin. Scrutarono Valency con sguardo vacuo, immediatamente consci che qualcosa non andava. Questa non era la sfacciata, impudente creatura che li aveva derisi in quella stessa stanza l'estate precedente. Era una donna dal volto cereo, con gli occhi di una persona a cui fosse stato inferto un colpo mortale. Valency guardò attorno alla stanza con aria indifferente. Lei era cambiata così tanto mentre essa era mutata così poco. Gli stessi quadri erano appesi alle pareti. La piccola orfana che si inginocchiava in un'infinita preghiera vicino al letto sul quale riposava un micino che mai sarebbe diventato adulto. L'incisione in acciaio della battaglia di Quatre Bras con il reggimento britannico in perenne schieramento. La grande riproduzione a matita del padre da ragazzo, quel padre che lei non aveva mai conosciuto. Erano tutti lì, appesi nelle posizioni di sempre. La verde cascata dell'ebreo errante continuava a straripare dalla vecchia casseruola di granito vicino alla finestra. La stessa elaborata e inutilizzata brocca si ergeva alla medesima angolatura sul ripiano della credenza. I vasetti blu e oro che erano stati tra i regali di nozze della madre adornavano ancora cerimoniosamente il camino, fiancheggiando la sveglia di porcellana verniciata che non aveva mai funzionato. Le sedie erano esattamente nella stessa posizione. Sua madre e la cugina Stickles, ugualmente immutate, la guardavano impietrite, senza riservarle alcuna accoglienza. Fu Valency a dover parlare per prima. «Sono tornata a casa, mamma», disse stancamente. «Lo vedo». La voce... di Mrs. Frederick risuonò alquanto gelida. Si era rassegnata alla fuga di Valency. Era quasi riuscita a dimenticare che vi fosse una Valency. Aveva riordinato e riorganizzato la sua sistematica esistenza senza dover pensare alla figlia ingrata e ribelle. Si era ripresa al proprio posto in una società che ignorava lei avesse mai avuto una figlia o che per questo la compatisse, e se mai l'avesse compatita, lo faceva con commenti e digressioni discrete. La verità pura e semplice era che a questo punto Mrs. Frederick non desiderava che Valency tornasse a casa, non voleva neppure rivederla né ricevere sue notizie. E ora, naturalmente, Valency era qui e recava visibilmente con sé tragedia, disgrazia e scandalo. «Ebbene, lo vedo», disse Mrs. Frederick di nuovo. «Posso chiederti perché?» «Perché...» «Non sto per morire», rispose Valency con voce roca. «Che Dio benedica la mia anima», disse lo zio Benjamin. «Chi ha detto che stavi per morire?» «Suppongo», intervenne la cugina Stickles con tono bisbetico, neppure la cugina Stickles voleva che Valency tornasse, «suppongo che tu abbia scoperto che ha un'altra moglie, come noi siamo certi ormai da lungo tempo». «No, desidererei che ce l'avesse», disse Valency. Non stava soffrendo particolarmente, ma era molto stanca, come desiderava aver già spiegato tutto per poter restare nella vecchia e brutta camera da sola, semplicemente da sola, il chiasso prodotto dalle perline presenti sulle maniche della madre quando sbattevano sui braccioli della sedia di giunco, quasi la faceva impazzire. Non c'era niente altro che la preoccupasse, ma ad un tratto le sembrò di non poter semplicemente tollerare quel lieve e persistente tintinnio. «La mia casa, come ti ho detto, è sempre aperta», sentenziò Mrs. Frederick con freddezza, «ma non potrò mai perdonarti». Valency rise senza gioia. «Me ne importerebbe ben poco, se soltanto riuscissi a perdonare me stessa», disse. «Su, su», si interpose lo zio Benjamin con impazienza, ma con un certo divertimento. Sentiva di avere nuovamente in pugno Valency. Ne abbiamo avuto abbastanza di misteri. Che cosa è accaduto? Perché hai lasciato quell'individuo? Senza dubbio c'è un buon motivo, ma quale in particolare? Valency iniziò a parlare meccanicamente, raccontò la propria storia con schiettezza e semplicità. Un anno fa il dottor Trent mi disse che soffrivo di angina pectoris e che non potevo vivere a lungo. Beh, volevo vivere un po' prima di morire, ecco. Perché me ne sono andata, perché ho sposato Barney e adesso ho scoperto che era tutto un errore. Il mio cuore non ha niente di grave, devo vivere. E Barney mi ha sposata soltanto per pietà, così devo lasciarlo libero. Buon Dio, disse lo zio Benjamin. La cugina Stico si iniziò a piangere. Valency, se soltanto ti fossi fidata di tua madre. Sì, lo so, rispose Valency con impazienza. A che serve parlarne adesso? Non posso cancellare questo anno. Dio sa se vorrei farlo. Ho ingannato Barney e l'ho convinto a sposarmi. E lui in realtà è Bernard Redfern, il figlio del dottor Redfern di Montreal. E suo padre vuole riaverlo con sé. Lo zio Benjamin emise uno strano suono. La cugina Stickles si tolse dagli occhi il fazzoletto bordato di nero e indirizzò lo sguardo verso Valency. Uno strano luccichio comparve d'un tratto nelle orbite grigie come la pietra di Mrs. Frederick. «Il dottor Redfern? Non dirai quello delle pillole color porpora?» chiese. Valency annuì. «Sì, ed è anche John Foster, lo scrittore di quei libri sulla natura». «Ma...» Mrs. Frederick era visibilmente agitata, ma non al pensiero di essere la suocera di John Foster. «Il dottor Redfern è un milionario!» Lo zio Benjamin chiuse la bocca con uno schiocco. 10 volte milionario, disse. Valency annuì. Sì, Barney se ne andò anni fa a causa di alcuni problemi, di una delusione. Adesso probabilmente vorrà tornare, così, vedete, Dovevo tornare a casa, lui non mi ama, non posso tenerlo legato in un rapporto nato dall'inganno. L'espressione dello zio Benjamin si fece assai scaltra. Ti ha detto questo? Ti ha detto che vuole liberarsi di te? No, non lo vedo da quando ho scoperto tutto questo, ma vi dico che mi ha sposato soltanto per pietà, perché io gliel'ho chiesto, perché pensava sarebbe stato soltanto per breve tempo. Mrs. Frederick e la cugina Stickles tentarono entrambe di parlare, ma lo zio Benjamin le zittì con un gesto della mano e assunse un'aria fortemente accigliata. Lasciate che me ne occupi io, sembravano dire quelle mani e quel cipiglio. Poi si rivolse a Valency. Bene, bene, cara, ne discuteremo più tardi. Vedi, ancora molte cose non ci sono chiare. Come dice la cugina Stickles, avresti dovuto fidarti di noi tempo fa. Più tardi, scommetto, potremo trovare una soluzione. Pensi che Barney possa facilmente ottenere il divorzio, vero? Disse Valency con serietà. Lo zio Benjamin frenò con un altro gesto della mano l'esclamazione di orrore che sapeva sarebbe presto uscita dalle labbra di Mrs. Frederick. Fidati di me, Valency. Tutto si aggiusterà da sé. Dimmi, Dossie, sei stata felice nella landa desolata? Mr. Redfern è stato buono con te? Io sono stata molto felice, Barney è stato un tesoro con me, affermò Valency, come per recitare una parte. Ricordava che quando studiava grammatica a scuola non le piacevano il tempo passato e l'imperfetto, le erano sempre sembrati così patetici. Io sono stato, era già accaduto, e non esisteva più. Allora non preoccuparti, ragazzina. Com'era sorprendentemente paterno adesso lo zio Benjamin. La tua famiglia ti appoggerà. Vedremo cosa possiamo fare. Grazie, disse Valency in modo apatico. Davvero era assai decoroso da parte dello zio Benjamin. Posso andare a stendermi per un po'? Sono così stanca. Certo che sei stanca. Lo zio Benjamin le dette sulla mano dei colpetti gentili, molto gentili. Sei distrutta e nervosa. Vai a riposare ad ogni modo. Dopo un buon sonno vedrai le cose sotto una luce completamente diversa. Tenne la porta aperta mentre lei l'attraversava, le sussurrò: Qual è il miglior modo per tener vivo l'amore di un uomo? Valency sorrise tristemente, ma aveva fatto ritorno alla sua vita precedente, alle vecchie catene. Quale? Chiese con la stessa mitezza di un tempo. Non corrisponderlo, disse lo zio Benjamin con una risatina. Chiuse la porta e si sfregò le mani. Annuì e sorrise con aria misteriosa, guardando attorno alla stanza. Povera piccola Doss, disse con tono patetico. Credi veramente che quello Snaith sia in effetti il figlio del dottor Redfern? Boccheggiò Mrs. Frederick. Non vedo perché dubitarne. Ha detto che il dottor Redfern è stato là? Beh, quell'uomo è ricco come una torta nuziale, Amelia. Ho sempre creduto che Doss valesse molto di più di quanto la gente pensava. L'hai tenuta troppo a freno, l'hai repressa, non ha mai avuto l'opportunità di mostrare il proprio valore e adesso si è accaparrata un marito milionario. Ma, esitò Mrs. Frederick, lui, circolavano storie terribili su di lui. Tutte chiacchiere e invenzioni. Sarà sempre un mistero per me il motivo per cui la gente sia tanto pronta a inventare e diffondere fandonie su persone delle quali non sa assolutamente niente. Non riesco a comprendere perché tu abbia prestato tanta attenzione alle chiacchiere e alle congetture, soltanto perché lui ha deciso di non mescolarsi con chiunque la gente sia offesa. Fui sorpreso nel constatare che individuo a modo fosse quando si presentò nel mio negozio assieme a Valency. Da quel momento non ho più dato credito alle chiacchiere. Ma una volta lo hanno visto ubriaco fradicio a Port Lawrence, disse la cugina Stickles, senza convinzione però, come qualcuno che voglia essere convinto del contrario. Chi lo ha visto? Domandò trucemente lo zio Benjamin. Chi lo ha visto? Il vecchio Jemmy Strang disse di averlo visto. Non prenderei per sacrosanta la parola di Jemmy Strang. È lui stesso troppo sbronzo per la metà del tempo per poterci vedere chiaro. Dichiarò di averlo visto ubriaco su una panchina del parco. Pua! Redfern stava dormendo, non preoccupatevi per questo. Ma i suoi vestiti e quell'orribile vecchia auto, disse Mrs. Frederick. Eccentricità del genio, dichiarò allo zio Benjamin. Hai sentito Doss quando ha affermato che lui è John Foster? Personalmente non sono un letterato, ma ho udito un docente universitario di Toronto affermare che i libri di John Foster hanno fatto guadagnare al Canada un posto sulla mappa del mondo. Io suppongo che dovremmo perdonarla, concesse Mrs. Frederick. Perdonarla? Sbuffò lo zio Benjamin. Davvero, Amelia era una donna incredibilmente stupida. Non c'era da meravigliarsi che la povera Doss si fosse stufata e stancata di vivere con lei. Beh, certo, penso sia meglio che tu la perdoni. La domanda è: Snaith ci perdonerà? E se lei persiste nel volerlo lasciare? Non hai alcuna idea di quanto possa essere testarda, disse Mrs. Frederick. Lascia che me ne occupi io, Amelia. Lascia tutto nelle mie mani. Voi donne avete già creato troppi problemi. L'intera faccenda è stata gestita male dall'inizio alla fine. Se ti fossi data pensiero qualche anno fa, Amelia, Valency non sarebbe fuggita a quel modo senza lasciare traccia. Lasciala in pace, non assillarla con consigli o domande finché non si sente pronta a parlare. Evidentemente è fuggita in preda al panico. Perché teme che lui sia arrabbiato per il fatto che lei lo ha ingannato, cosa assai straordinaria che il dottor Trent le abbia raccontato quella storiella. Ecco che cosa accade ad andare dai dottori che non si conoscono. Bene, bene, non dobbiamo biasimarla troppo duramente, povera figliola. Redfern verrà a cercarla. Se non lo farà, lo scoverò e gli parlerò da uomo a uomo. Può essere un milionario, ma Valency è una Sterling. Non può ripudiarla soltanto perché si sbagliava sulla sua patologia cardiaca. Non credo lo farà. Doss è un tantino tesa. Buon Dio, devo abituarmi a chiamarla Valency. Non è più una bambina. Adesso ricorda, Amelia, sii molto gentile e comprensiva. Era cosa assai grande aspettarsi che Mrs. Frederick fosse gentile e comprensiva, ma fece del suo meglio. Quando la cena fu pronta, salì al piano di sopra e chiese a Valency se desiderasse una tazza di tè. Valency, sdraiata sul letto, rifiutò. Voleva soltanto essere lasciata da sola per un po'. Mrs. Frederick la lasciò da sola. Non le rammentò neppure che la sua pena era la conseguenza dell'assenza di rispetto filiale e della disobbedienza. Non si poteva esattamente dire una cosa del genere alla nuora di un milionario.